io, vediamo un po' se mi senti, non so se ci arrivo lì dalle partiture. Sono l'uomo del monte, ma non sono al monte, sono in macchina. Come funziona questa radio? Ce la butto o me la tengo? In macchina e ogni tanto accenno questo affare che già mi viene nervoso perché si è creata una riga nella, sai, monitor che c'è alle volte scriveva nel 7004, 756, 7004, il pixel del display che è così. Anche le radio invecchiano, non è possibile. Ma l'ambulazione è bella amplificata, quel microfono truccato, cioè avevo fatto stata abbassata, carburatore 19, tutte quelle spillo, tutte quelle modifiche che si facevano. Non è mica così micio bao bao che apprende anche un microfono qualsiasi. Fortissimo, non toccare il tasto del display, perché va, sul 756 io ci ho rimesso la bellezza lì, 270 euro, così mi ci ho preso. Ho iniziato con una righina, 3 non è niente, poi ho iniziato righine su righine, lo spento con gli occhiali e riuscivo a fare la frequenza. Non lo trovavo da nessuna parte, ho chiamato a Braga, ho detto guarda, sei fortunato, ne ho uno, perché me l'hanno ordinato e poi non hanno fatto lavoro. Ma detto, cosa faccio? No, me lo mandi. Cosa dico? Mi ha detto, se vuoi vedere il numero della rovescia, ho detto mandamelo, che me lo cambio io. Ti sto mandando immediatamente alla radio. Ho mandato alla radio e grazie a Dio l'ho sistemata. Grazie a Dio l'ho sistemata, perché ero disperato. Così e poi queste, quando comincia ad avere qualche anno, già il ricambio non è più buono più, non vogliono fare per tanto tempo. Prima i componenti trovavi e se c'era una radio vecchia, con vecchio sistema di statura si rimetteva a posto. Adesso la cosa allucinante è che possono riparare una radio che ha 30 anni, una radio che ha 3 anni, fanno fatica a ripararla, allucinante, al contrario. E perché loro dicono che non conviene più ripararla, non conviene. Cioè, buttare tutto. E vabbè, mi sono passato adesso verso casa tua, avrei visto che il segnale è salito. No, non è tanto, questo qui è meno male che nell'ultima cifra, è un po' così, vediamo ancora, vediamo, già questo mi pare che sia il terzo di 857 che ho piazzato, ma va troppo bene, non ce n'è. No, è ottimo anche per le prestazioni, poi per il posto, va ingombrante, va benissimo la grande. Marco, io ho tuo fai memoria, ero appena diventato lavoratore, quindi parliamo del 1992, mi avevi dato il 701E Big Banda con la modifica che mi hai fatto tu per attaccare al packet. Allora, è sempre così, perfettamente funzionante, tira fuori sempre i suoi 20 watt, a volte 25, sta dicendo guarda che sono iniziamo a perdere i colpi, però perfettamente funzionante. Ed è una radio con i toni, quindi hai toni per poter citare i punti. 701 è, me l'avevo dato tu dalla Gameboard, quindi è dentro l'armadio, l'ho tolto da poco, l'ho acceso, con voi se funzionava ancora perché stavo mettendo a posto, è perfettamente funzionante, quindi le cose tue sono sempre in ordine. Poi non parliamo di radio riparazione perché c'è Fabrizio che sta in partenza con una radio che io ho dato a Roberto, che mi ha fatto un cambio, chiaramente gliel'ho detto, tra l'altro questa radio è sorda in VHF, dici tu, cioè prima si potevano riparare cose, adesso non si possono più riparare, o meglio dire, si possono riparare con molta più difficoltà. È veramente un casino per chi ha quel hobby fa il tecnico per mestiere, capito? È una grande rottura di scatola. Ma se io mi fa segnale che è venuto a tenore, il 140 ha fatto boom. Sì, mi immagino. No, me lo ricordo quella radio, cavolo, c'era il connettore fatto per il packet. Sì, me lo ricordo, il connettore grigio che avevo già predisposto per collegare direttamente al modem. Era una modifica simpatica quella lì, così non toccava più niente, il microfono, nulla, c'avevi già la connessione di P9, boom, attaccavi il modem ed eri on air. Così, e ormai è così, no? Anche perché le aziende non richiami per un po' di tempo li producono, poi non li producono, c'è l'assistenza, perché no, io qua svitano e tolgono la scheda e ce la buttano e mettono un'altra nuova, ma se la scheda nuova non gliela va perché non la producono più, si è fregato. Non è che vanno di più e entrano in merito a vedere, a riparare, a controllare, no, non si fa più quell'intervento, si fa più, non si fa più. Ma l'altro 817, sai che c'avevo 817 titolo appena era uscito, che anche qua di contatti, anche quando si usò. E l'ho mandato perché gli ho detto guarda che siccome ormai c'è i suoi anni, lo faceva già dopo già pochi anni in analisi si esaurì, nel senso che cominciava a diminuire la potenza e poi morivano tutti, lasciavano anche mangiare. Anche in quel caso, ma non si può, cioè non è che possiamo cambiare i finali, qua ti metto tutta la scheda che è completa, dei finali e tutto, e mail, dai così, la rinnovo, la rifacciamo nuova, eccetera. Vabbè, metti la scheda, la scheda già l'ha messa, ma non ti dico il sale, il conto quanto è arrivato, quasi 200 euro. Quasi 200 euro, capito? Sì, ma pazzesco, io mi ricordo 275H che aveva un problema appunto sullo stadio finale, aveva trovato subito Fabrizio, aveva ciappato, aveva fatto anche una modifica per farci, insomma, che tanto è vero che da più adesso che prima, facilissimo da fare, capito, da vedere, ma questo stiamo facendo. Io pensavo all'820H fosse uguale al 275H, come invece tutto SMD, questo è uscito dopo, è il bibanda che hanno fatto prima del 910H, quindi è tutto SMD. Ci sto lavorando, ma veramente anche ieri stavamo parlando, è entrato salutarci con il 10 e sta impazzendo. Se impazzisce lui vuol dire che la cosa è veramente non sa male. No vabbè, poi c'è in girella. E allora prima che ci chiudano del tutto, già ero al Corriere per tirare un picco e non è arrivato, ritardi, ha dichiarato che ci sono blocchi delle consegne da Piemonte e Lombardia, già bloccato, tutto bloccato. Ma boh, scendo, dai, magari riprendo fra qualche minuto, tanto sono con questa macchina e c'ho la radio. A Franti, ci sentiamo fra un po', scendo a fare quest'altra piccola commissione e dopo riprendo. Ehi, Amato, fai pure, sono qua, ci siamo dopo. Ci cucano le 10, c'è nessuno? Ci cucano le 10? Luca, sali e scendi. Aspetta, Luca, sali e scendi. Io. Ehi, vabbè, che punto sei? Punto molto superiore. Adesso ho dato la prima mano ai tasti. Fai, io sono qua. Beh, lascia, ve la dopo domani. Non ve la dopo giù. Me lo stai già sembrando? No, ho dato la prima mano di trasparente ai tasti. Bello viene, cazzo, viene nuovo. Ascolto, è il gelato, come l'hai fatto? Quel grigio o nero, come ho detto io? No, ancora non ho fatto il gelato qua. Lo devo fare. E devo vedere se farlo come i tasti. Grigio, grigio spazzolato con la cubicatura. Devo vedere. Cazzo, volevo fare il mio, il colore delle MC60, è quello basic. Io voglio farlo grigio, subito col tintometro. Infatti, sì, io in 440 non l'avevo cominciato lui, senta da un luogo. C'è anche il tintometro, ho portato il tappi, col tintometro ha rilevato il colore, e adesso ne ho una bomboletta, ne ho fatto il colore là un bacio, fatto poco buccia, 26 euro, una bomboletta piccola, forse fa due coppie che buco. Non lo voglio staccare, che è per verniciare quel coso, ma se lo vedo, perché ce l'ho il colore. Non so se leggermente più chiaro, leggermente più scuro il microfono, ma mi sembra che sia più chiaro. I tappi del 430, sì, sono più, leggermente più scuri. Sono addirittura più scuri anche quelli del 140, vabbè, adesso vediamo. Ma diversi sono. Da 140 a 430. Appena appena la trovo la differenza, non sono tutti uguali, è un po' più scuro come grigio. Guarda, il colore del 430 è proprio uguale a quello del PS50, uguale a quello del PS50, gli altri sono un pochino più chiari, si nota poco, sono originali, per carità, però evidentemente qualche altra casa di verniciatura, mentre la colonnina, la CP430 è uguale, quella sì, al colore del 430. Il PS50 invece è uguale al colore del 140, il PS430 è uguale al colore del 430. Invece che hanno fatto tutta la linea di un colore, capito? Mentre gli altri li hanno leggermente corretti. Tu hai fatto tutti precisi. Cursino e pagli. No, è poco che trovano un graffio già, non so da verniciare, no. Sono nuovi, tutto nuovo. Ma un graffio, neanche gli alimentatori, colonnina, tutto. Il 430 nuovo nuovo. O perché il 440 ne aveva verniciato. E non lo sentivo nuovi. Con questa vernice che ha fatto lui. Ed era veramente, si assomigliava moltissimo, tutti si vedeva poco poco. Io con quel colore lì, con quel numero lì, sono andato alla UPAS che mi hanno dato lui. Adesso sai che fanno anche le bombolette spray. E ce l'ho, piccolina, per fare il microfono già basta, per cambiare il colore al 50 già basta. E mi avanza pure. Ma sì. E poi lo trovano loro col tintometro. A voglia. Prove, mica prove, poi già ci riesco. Il problema è che puoi isolare il frontalino dove c'è la capsula del microfono. Il microfono togli tutto, però un casino è a togliere l'interruttore che c'è sopra, capito? Come fai quello? Come bisogna isolarlo? Bisogna isolarlo sì. Lo so. Perché a toglierlo quello non ci si riesce, bisogna che è cullato, sicuramente. Come hai fatto a isolarlo tu? Ma il microfono, te l'ho detto, il gelato ancora non l'ho fatto. E col nostro il taglierino, un po' da petto. Una rottura di palle. E domani vedo, se ne ho voglia, mi vanno un fagiolo, lo appendo. Ma fino a stendere, lo faccio grigio. È bello grigio, questo grigio è bello, anche se originale è così boys, però c'è una famiglia che lavora, senti, un bomba, sono uscito molto stamattina, molto fruttito. Perché sarà la bocca che andisci molto. Tu vuoi che la mascherina, balliano i zombie, occhiali, casco, mascherina. Però mi ha pizzicato lo stesso, cazzo, l'ho portato leggero, c'era la camicia sotto. Fantua a me, io lo pesco in moto. Non mi metto mai il giubbotto quello grosso, cazzo. E vabbè, già passa. Dopo mi prendo un po' di luce per la gola. Quello spray Benadol dovrebbe far bene. Gappa gappa, vabbè, io sono qua. Se entra qualcuno, siamo pazienza. smetta. Tutto capo di rosmetto. Uiaia. Anche oggi ha fatto caldo, eh. Con o senza pedivella. Lascia vedere, allora. Aspetta, No, io adesso tra un po' vado via, tra un po', sono le 8 e 10, sono 4. Domani mattina devo andare da Manoa, mi sono fatto fare la delega, perché c'è qualcosa che non quadra. Cioè le bollette sono pagate, cla. Allora le bollette devono essere pagate singole, no? Ogni bolletta ha una scadenza. Io ce le pagavo a 5 a 5, ecco perché a loro non gli risulta. Infatti ho detto di andare perché sono dei casini di pesci. Io entravo in radio, io, Tonino, Gianni, intanto entravo anche Bombolino, siamo arrivati fino a mezzanotte, tu ti sei fatto sentire. No, io c'ero, c'era Gianni anche, e poi alle 10:30 l'ho spento, cioè non li ho più sentiti, boh. Non so, vabbè, là, guardiamo una sciacquata, ci sentiamo dopo. Ehi, va bene. Segni che con le radio sono molto, molto delicate, quindi qui a vederlo, no, io quelle che ho sono tutte funzionanti, tutte, capito? Quindi dovrebbe essere funzionante perfetta come comunico io anche quella, perché i coperchi lo sai, no? Li togli, vado da Roberto e ti faccio fare nuovi, capito? Non è un problema, è originale pure perché c'è il vintometro, quindi mi trova la vernice sua come mi ha trovato per il 440, l'ho fatto nuovo nuovo, è uno spettacolo, è uscito, capito? Però se poi c'ha pomelli mangiati, pomelli consumati, noto qualcosa che non mi piace, allora non va bene. Funzionante, se no è meglio che non ripeta. Funzionante è in ordine, perché insomma, non è che torniamo al discorso che ti ho fatto, no? Se è funzionante, allora è funzionante, se non è funzionante, si rende per non funzionante, come ho fatto io con Gianni alcune cose che abbiamo scambiato, capito? No, è chiaro che lì devi aggiungere, non si compri, se dai una cosa non funzionante devi aggiungere per comprare. Va bene, dai, poi il 28 scende uno da vicino a Olbia e deve portare un'altra cosa, quindi sono valutando, ma qui ci devo cacciare fuori, vabbè, adesso vediamo. Simpson. Ho la vaga impressione di sì, piace troppo, quella però che ti ho mandato io, guardala, mettere una sopra l'altra, guarda la differenza che c'è già, la conosco bene, sono tre serie di color radio, quella dovrebbe essere la prima serie, quella che voglio io, io e la seconda serie, quella che voglio io, capito? Perché la terza serie è buona, non l'ho cercata, non lo so, comunque già dalla prima alla seconda serie cambia tantissimo. Ieri sera ha smesso di fare adesso perché io avevo già, avevo visto questo difetto qua, che c'era anche l'altra AM e l'LSP, era in centro, non era, non era posizionato né su uno né sull'altro, era al centro. L'ho messo in AM bene, ha fatto lo scatto, tac, e poi io sono entrato con la scelta Fabrizio, gli ho detto la situazione, ha detto ma adesso non sta facendo nulla, e allora ho capito che era questo. Davanti è tutto, c'è quella placca con la scritta, i numeri. Luca, tu dimmi la curiosità, ma non perché poi la diciamo? C'ho il terrazzo io, capito? C'ho una parte di terrazzo che è chiusa. Ah, perché all'aria viene un po' male la diciamo. Vabbè, anche io lo faccio il terrazzo e lo metto sulla cucina, mi metto un telo di quelli in plastica che usano nelle terrane dell'acqua, ce li ho presi, ti lo attacco alle mattonelle perché c'è il cuscino, fu l'attacco alle mattonelle col nastro e poi lo spruzzo, li metto praticamente quattro stecchini sotto per non attaccarsi e poi lo spruzzo. Io la voglio, pongo un ganzo ai coperchi dove ci sono i buchi delle viti, metto un gancetto, lo prendo, lo scrivo a prendere e vamo già alla playa. E spruzzi tutto! Già sì, comprendo pure un po' di pittura, la polverina della frattura è maledetta, se ne va in terra. E infatti già me ne sono accorto, la prima volta ho arrivato un casino niente, già male, se qui non la moglie, ma invece metto sempre il giornale, capito? Metto il giornale per terra, chiudo la porta, quando non c'è vento, però se no me ne vado giù, sotto il porticato, dietro il porticato, nel giardino, c'è un albero basso, sono dei rami bassi, faccio i ganci e li prendo lì, però quello d'estate, d'estate asciugano subito, me ne vado giù. Infatti voglio cominciare il microfono dell'MC50, lo voglio fare grigio perché è beige, originale, nato così, lo voglio fare grigio come l'MC60. Claudio, oltre i 50 ampere, che alimentatore posso prendere? Che tipi di alimentatori ci sono in giro? Adesso come adesso, oltre i 50. Già lo sai che non lo so, io ho il boxer che ho il 60 io ho il 60 W, il più grande che ha fatto la boxer, quello a protezione, anche se inverti i fili ti si spegne l'alimentatore e non fai danno. E poi l'altro che ho è della Diamond, bellissimo, Diamond, originale Diamond con il, sempre il, lo strumento illuminato a tre scale, uno unico a tre scale, c'è l'interruttore, lo strumento Rolls Ampere, ho due scale, Rolls Ampere, e anche quello da 50 ampere, però non lo so, altri se ne fanno più grossi, se ne fanno, non lo so, però chiedo a Luca, a vedere, Luca è sempre in contatto su eBay. Sì, se lo puoi fare a guardare, dai. Luca, tu ne hai visto oltre 50 ampere di alimentatori. Ma perché non vuoi così grande? Per quella lineare là? Perché a volte fa più dove se non ce la fa. Ce la fa io. Perché tu hai 12 volte, no, io ho ordinato, praticamente quello che ho io è 12 e 24, mi sono fatto mandare l'alimentatorino, il trasformatore piccolino da 12 a 24. Ah ecco, ma sono affidati questi che ci sono dai cinesi da 50 ampere. Già, se lo vuoi provare, io ce l'ho da 50 ampere, ma non è dei cinesi, io l'avevo pagato 25 euro, lui invece, perché li aveva ordinati Andrea, allora c'erano, li aveva ordinati, ne avevo preso 5, 4, 5 per fare spedizione, per portare gli alimentatori, per non stare con gli alimentatori grossi, eccetera. È molto più robusto, però frate, un casino, la ventola, mamma mia. mia, garaga, non lo so il casino che fa. Io non so come si fa per abbassare la velocità per fare meno casino, metto una resistenza tra il positivo e il negativo della ventola e ti abbassa la velocità, però è un bel casinista. Casinista un bel. Se il casinista così non fa, perché c'è la stazione e si sentirebbe il rumore subito, il casino. Perché di questo se lo fossato? Non si sente che se lo fossato, è basso, perché me l'hanno fatto. Dove sento? Vabbè, non mi arrivi 9:10. Tante casa due che ci rivende, a Gianni non lo so quanto gli arrivi. Non senti Antonio al deposito. Oh, Marco! Ehi, Anto, ti sento, ma con l'amplificatore d'antenna, se no ti sentivo pio, sappiamo 3:20 ti ascolto. E la radio 2. Ehi, già va bene, sì, con l'apparecchio va molto bene. Guarda, io non dico, ma si lontano la casa, devi contare anche quello. Ehi, ma è bene Anto, sembri a casa tua. Ma molto, ma non te l'ho detto, portate domiciliare. Io l'avevo visto quando ce l'aveva prima di averlo Gianni. È molto bello anche, ma funziona molto bene. Ma adesso sei calato. Oh, adesso sei Anto 54. Adesso sei 9:10. Beh, se sei su sì. Stavo dicendo già del Galaxy, sì, ma la modulazione come sempre, si è anche agganciato adesso, non sta saturando, vedi? Dai, già va bene, già va bene, ma i picchi come sono positivi? Sì. E adesso sono stato amplificato a Santiago. Tu andi andata alla baracca, tu, o è andata a Cambuanza? A quella al 238. Sempre uguale, sì, grazie, sacca, tu muore anche io, devi fare miracoli. Ah, va bene, Anto, sei con Antonino in gomma, sei 9:10. Gianni ti ascolta Santiago 5, cosa vuoi di più? Tu, come è andata da te? Adesso ho staccato l'amplificatore della antenna e c'è Santiago 1. Se no, di Santiago 3.5-4, dai. Adesso è aumentato, sei 2. Ma non che non arrivi. Ma io mi quasi 3, dove sei? Ma è andata la capiscuria, sei andato. Oddio, ma perché l'amplificatore d'antenna tuo non funziona senza inserire, praticamente senza fare andare l'amplificatore? Il mio sì, cioè può inserire solo tenendo acceso il lineare, no? Tenendo acceso il lineare, può inserire solo l'amplificatore d'antenna senza far funzionare a lui. Sì, anche il mio è così. Solo che io ti premo tutti e due perché al mio non ci vede, allora per non sbagliarci, ti premo tutti e due. E tu hai detto sono uguali. Quello lì è nato perché l'hanno fatto diversamente e non hanno messo la ventola. Mentre il mio invece che prima di quello non hanno messo la ventola. Non sono uguali. No, c'è un bel amplificatore, 20 dB aumentano. Il mio? Sì, da 20 dB è quell'amplificatore. Ma va bene, segnalami. Io quando uno per lì mi arriva, no, ve lo porto a 9:10. Allora, qua ho aumentato da 1 a 4 addirittura. E sono 4 punti S. E così è. Sì, cazzo ancora. Ma va la bua. E il 2 mi arriva a fondo scarace. È passato poco fa a Marco, Scorpione in macchina, e ho dovuto attenuare, figurati. È passato qua vicino a casa, stavamo chiacchierando qua. Uia. Secondo me non un cacchio, non vado ora, mercoledì. C'era durante la visita, ne ha avuto, speriamo che tolgano questo cacchio di coso, di perno, con i punti. Ma politico a fine? A policlinico allora. Ah, cavagava. Ma io avrei già diritto di anarco. E cosa ci sono tutti i giovani adesso in chirurgia? No, c'è, già ci sono gli ortopedici bravi. Ci sono gli ortopedici bravi. Ah, ma è quello che te l'ho operato. No, già ci sono anche gente nuova. C'è gente nuova. No, un uomo di infermieri abita qua nel mio palazzo. C'è una vita, c'è un'ortopedia. È proprio lui che è riuscito a farla mettere in mezzo per operarla, però non ce la faceva più manco a camminare. Adesso speriamo quando le tolgono tutto vada bene. Io avevo il numero di un dottore quando mi devo operare tutti perché le domani mi hanno detto dopo due giorni mi hanno operato. Beh, è chiaro che sì, così deve essere. Noi l'hanno chiamata 3-4 giorni prima, erano 3-4 l'operiamo. Erano operato 4 mattina, è riuscito il 4 notte, ma la notte fonda perché non è stata bene, capito? La notte fonda sono andato a prenderla, non è stata bene. Poi è stata male 2-3 giorni, sempre vomiti, cose. Adesso lamenta il fatto che non può appoggiare bene per terra perché le fa male, o perlomeno l'appoggia ma le fa male. Quindi gli ho detto, sicuramente il perno che hai te lo devono togliere, e già ti dico, piano piano c'è ancora i punti. Adesso ci vuole un po' di tempo, ma poi già si sistema bene, dai, anche io prima non mi ero mai trovato a mobilità larga, non c'è un equilibrio, non riuscivo a stare in piedi. Non avevo più equilibrio, infatti ero disperato, mi sono andato a disperare, tutto finito, insomma, come non riesco più a camminare. È un casino, i piedi, le gambe, la schiena, quando sono questi cazzo di malanni è un casino, bisogna stare sempre allerta. E a me per il re, ho fatto due la doccia per il re. Ma che il flipper? No, flipper è bicicletta, per il re la c'era anche, non c'è mai cubi. Ah, ho sentito io, Luca, è il re da... Cosa un po'? Non è che l'ha entrato la sua. Tu, ma sei ancora lavorato, sì. Sì, perché mi ha detto l'amico che San Giovanni, ma non sarà santo, perché una volta mi sembra che mi hanno accennato che c'era dei lucidi. Sì, so qualcosa anch'io, ma mi aveva accennato quest'estate, ci ho visto due o tre volte per il caffè, ma ho detto una cosa del genere, però poi era impegnato in altre cose, capito, quindi no, non ho più chiesto niente. Andava. Io non c'è lui, non so quelle cose, quindi non so se è dubbio, se a qualche allevamento dove vende, compra. Fresca, un po' tipo la di mail per avvisare, neanche io c'ho un pacco in consegna, però arrivo al 28. Questo 23-12, lo aiuto. Ho metà passata dopo, non presto. Ti gridi, passo pizza, sai? Sì, dato consegna l'ora di pranzo. Parti presto, te la rientro in presto. E io, allora, per me la sto a te, ho tutti i vantaggi, poi fatto. Se non ho portato pure appresso, a te. Vabbè, deve stare segregata per una lagarta, può guardarci. E qualche tappa, ti fermi, facendo la fa pipì, prendo un po' d'aria. E tu c'hai la cosa dietro, il trasportino. Io non voglio nulla, io faccio qualche rogeria dietro, la metto al prende, e sicuro che anche lì di dietro, e si dorme. Filippo è macchina russa, una cosa allucinante. Russa, non riesce in macchina a far dormire, capito? Lui russa, dai se lo scorreggia, che sta tutto lo scorreggia, rimane un fianco, non si butti la strada. Sta guardando il televisore e si è messo, dopo che abbiamo chiuso, acceso il televisore, mi sono mangiato, avevo quei crostatini della San Carlo e gli ho voluto fare la festa. Ehi, ancora, no, ma c'è un così morosi, anche Filippo, Filippo vede andare alla televisione, è andato molla, però lo sappiamo che è lui. Sì, poi si capisce da loro, si riconosce in mezzo a tanti scorreggi, il gusto del cane. Sì, tanto io proprio vi angoscio. Ma non puoi tu, si caga il mio padre. Sono loro, questi morosi, cazzo, non ho capito, e c'è una digestione un bel lenta. Sono molto delicati, hanno problemi gastrointestinali, molto delicati, se cambi, mi dai qualche cosa in più, si ti dà diarrea. Ehi, gloria a me, ti auguro. Io, quando è, 2 settimane fa, era addormentato, stava rosciando, di colpo ce n'è alzato così, dico che cosa, non c'era qualcuno alla porta, no? È partito la porta, poi è tornato da me, partiva la porta, poi tornava da me. Ma non voglio aggazzo del pugliato finito. Mi sono ricordato perché non mi sono dormito. Cazzo, io mi sono vestito in fretta, ho messo la tuta, le scarpe da tennis, veloce, un giubbotto sopra, sono sceso giù. Ma com'è non l'ho fatta nel portone? Subito nel giardino, boom boom! A me invece la cugina non l'ho fatta tutto, ero la porta di casa, l'ho fatta dentro casa, non ce l'ho fatta tutto lì. Già, noi andiamo in bagno, loro ti avvisano perché Filippo mai ne fa, mai scriva ma non ne va, però me ne sono accorto e l'ho portato subito e avevo mangiato il pollo, petto di pollo tagliato tutto a pezzettini e l'ha fatto male, nel frattempo non ero più, ieri l'ha dato in aria, portate i fegattini Mario, ho dato i fegattini bolliti. E ho mangiato volentieri, ho visto che non ho fatto niente, molti crocchetti rimangono. Io mi vado a pegare il cuore, se li sto dando il cuore, che rimane il cuore di vitello, praticamente lo compro lì a Centro K, costa 3,50 euro al chilo, ma lo faccio fare a fettine, prendo 2 cuori e mi durano per un bel po'. E spendo pochissimo, capito? E poi il cuore calloso mi piace perché loro mi piace rosicchiare. Lo so, però io ho sempre paura, capito? Ho sempre paura, pure molto anche della roba secca, ok? Adesso c'ho un sacco del monge di pollo, l'ha finito, adesso l'abbiamo cambiato, abbiamo preso quelle al mago, molte verdure. Mi piace un bel, anche perché lo metto un po' d'acqua, capito? Non è che glielo ammorbidisco, però lui si beve l'acqua e mangia. E anche lui fa così, ma le crocchette le mangia solo se sono mischiate con la tarroba. Ma tu le avresti dovuto comprare quelle al pesce che non scherzano anche a dirci che così almeno risolvi il problema della diarrea. Magari la carne e in più c'è il pesce, c'è l'utente del pesce. Ma sono così queste, hanno delle cose, e il pesce, io li avevo comprate le monge al pesce, però già, mi stava rimanendo il cane, no, non lo soddisfa, capito? Non lo soddisfa, allora Mario dice, grande, ciao Claudio. Se poi non lo portano entro il giorno, non lo prendo più, si va dopo le feste. Cosa? Il palco. Praticamente non mi hanno inviato la parte dove si attaccano i fili di quel amplificatore. Adesso gli ho fatto un incrocio io per attaccare i fili, e però la parte originale con il muro, con la possettiera, capito, si fa la parte. Però potevano anche scriverlo, che non c'era, perché ci va a pagare la parte. Gliel'avrei io tirato la stessa, invece mi venivano mandando così. Come l'ho visto, avevo tutte le tizze del problema, infatti da lui ho dovuto mollare tutto, perché poi mi sono inventato una cosa, e ho comprato solo qui, diciamo, gli attacchi interni, li ho isolati bene con il tavolo restringente e li ho fatti attaccare lo stesso. Io bene lo stesso, non attento. Ecco, ma ti sono entrato ora, penso che muoio sacco, ma tu guarda che domani te la devi dormire, domani fa il ghiero dove, dopo domani te lo tosse, e tu è figlia. Ma è figlia così? Cappa dietro un 2, il 29 e il 31 devo fare il giro apposta. Praticamente perdo un'ora e 10 minuti, mi sono tutta la giornata. Ecco Manuele. Cosa? Ecco Manuele. Niente, un macello per partire, posso fare, perché il 14 non c'è l'aereo, c'è il giorno 15, ma io il 15 devo essere già lì vicino alla Venna, come faccio? Devo trovare la mano sulla macchina, devo essere lì 15, sotto che andare in nave, è un casino. E come me non c'è l'aereo? Per coronavirus sono pochi viaggi, quindi c'è soltanto il giorno 15 o l'11, ma allora non ce lo sarei posto io, va. Ma è l'11, e fai una villeggiatura, stai vicino al 14. Io sono andato a venire, ma andiamo ancora a vedere il disco. No. Ma sai quanto cosa dormire e mangiare là? Beh, immagino. No, quindi. A me va bene 2-3 giorni, ok. E beh, Tony, allora come fai? Quando di là? No, pagherò un anno, sto pensando. Il 13. Arrivo il 14 e qui ci sono lì. Le visite e il 18 io però, mi faccio il sabato domenica lì, e boh. Il 13 c'è a disposizione? No, il 13 io parto, arrivo il 14, mi cerco per dormire e mangiare, e il 14 arriva, sì, il 15 mattina vado all'ospedale, mi farò fare le visite, e il 18 lunedì prossimo qui mi opero. Sono ce l'hai io, devo parlare con lo studente a che ora devo andare, se mi dico che il giorno 15 posso farlo anche di sera, allora passo direttamente il 15 mattina, alle 9 sono a Bologna, è una cosa con calma, capito? Quindi vabbè, ma queste cose fatte all'ultimo momento, non è che me la sai bene, un intoppo, una cosa, comunque di tu, io partirei qualche giorno prima, piuttosto, però andarci all'ultimo momento così c'è un piccolo intoppo di tutti. Ti conviene prenderti il sicuro, tu dici, secondo me è poi per il tuo. Io non ce n'è, almeno che faccio il nave, parto il 13, arrivo il 14, ho tutta la giornata per cercarmi il posto. Ma infatti, è giusto così. Mamma, la nave non mi alzi, soffro mal di mare. Allucinante, che poi era fastidio. Boh. Esiste, ma fastidio per il mal di mare. Lo so, devo ormai digiuno a 2 e faccio fino alla stessa pastiglia. Spero se mangio, buonanotte. Mangi poco e poi quando arrivi arrivettivi e mai sicuro Manuele. Io sempre in tutto di sotto, cazzo, lui ho visto cose di coronavirus, stavano togliendo fuori, ma non l'avevano spostato, no, ho dovuto prenderlo prima. L'avevamo spostata, dopo venire dopo è venuta prima, è dovuta partire prima, purtroppo è così. Ma mi auguro che quando partire io è tutto passato, ragazzi. Cioè perlomeno diventa zona gialla, poi non so, avanti qua. frattempo ho cambiato postazione. È un casino, questo coronavirus è un casino perché i voli è un casino. La zona Gesero sono voli gatti e Valonia. Cosa? Che non sono voli, guardo Tobia, guardo Toccagliari, è un casino, Dicevo che vai con l'Italia, non so pronunciare fino a Milano. E mi ha detto cosa molto di più, sei più lontano. E poi devi prendere il treno e fare il tuo controllo di treno. Quindi ci hanno cercato l'aereo privato, ma mi sembra tutto un problema. Con l'aereo privato? L'aereo privato. E anche se con Berlusconi. Avanti, chi è? Ciao, un pomeriggio, dove sei? Ok, un pomeriggio, là. Sei bassissimo oggi, come mai? Va bene, non c'è problema, non c'è problema, un pomeriggio, là. Se vuoi restare, siamo qua. C'è Claudio, ce l'ho io, c'è Torino Kawasaki, vedi tu, Kappa. Se metti a Lupomigio. Sì, è Masso, c'è Lupomigio, che ti chiama domani dopo, c'è se che ti chiama Davide Massa. E se arriva la QRM, mi Lupomigio. Penso che Claudio ascolta meglio, che è più vicino a quella zona, penso a Matica. È un pisciano, Santiago 5 arriva qua. Ciao Lupomigio, buonasera, ben ascoltato. Riesco a capirti, ma non è questo grande segnale, stai attento a entrare a gamba tesa perché c'è il fallo, c'è la munizione, col cartellino rosso, rigore, è un casino. Va bene, siamo qua, vai già. E comunque dici, se vuoi restare non c'è problema, ogni tanto ti rilanciamo, avanti tu. Ecco, poi gli auguri ce ne fai o 25 direttamente, anche 24 minuti, se mi picchia. Avanti Claudio. È un casino, ma ci abbiamo questa radio, ci fa compagnia. Vabbè, 24-25, già si può uscire lo stesso, comunque non è un problema. Certo non ti puoi allontanare molto, ma già si può uscire. Sì, io mi sono informato, posso uscire. Vado a 50, sono lì fino a domani, capito? Poi posso trovare a casa un attimino per i cani, ok? Ah, già si può uscire, a piedi già si può uscire qua vicino. Tanto non c'è problema. I tabacchini sono aperti, tabacchini, edicole, supermercati. Già esco lo stesso, io me la fotti nuda. E ora che vuol dire lo braccio, ma te no, io esco, lo porto